riusciamo a stare soli mai per parlare fra noi di noi. È un mese ormai che non mi abbracci più, anche questo però sei tu. Perché? Perché vuoi rovinare tutto così? Con te, solo con te, respiro fino in fondo, amore, non mi arrendo, anche se non. Perdonarti le cose che non mi dai, io credo in noi, anche se non mi vuoi. Cos'è che ti allontana via da me? È la tua gelosia. Bugie non le sopporto più, anche questo però sei tu. Perché, perché vuoi cancellare tutto così?